La 10ª edizione del Genio della Donna pone un'attenzione, una riflessione attraverso incontri che si tengono a Palazzo Malvezzi, sede della città metropolitana in via Zamboni, su figure di donne artiste legate alla nostra città dal Medioevo fino al Novecento e legate anche a quella scena nazionale e internazionale che ha visto storicamente l'eccellenza culturale e artistica di tante figure appunto di donne e su cui vogliamo, come città metropolitana di Bologna, con l'Università di Bologna e il Dipartimento delle Arti, e con il contributo anche della Fondazione del Monte, rilanciare appunto l'attenzione, la conoscenza dell'eccellenza appunto che le donne artiste hanno incarnato storicamente e che vogliamo anche nella nostra contemporaneità rimettere appunto con voce quella forza e quella luce. Esiste un centro di documentazione che studia appunto la storia delle donne artiste in Europa, curato dalla professoressa Vera Fortunati insieme alla professoressa Irene Graziani, e negli anni hanno proprio costruito, composto con grande tenacia, con grande lavoro anche di tessitura, migliaia di schede di donne artiste e migliaia anche di riferimenti bibliografici attraverso i quali possiamo anche andare a ritrovare storie nelle pieghe proprio della storia, le storie meno note, le storie meno conosciute, artiste che magari non hanno avuto i grandi clamori perché sappiamo insomma quanto anche ha faticato la storia delle donne a emergere proprio storicamente, e queste schede sono l'occasione narrativa proprio per rituffarsi dentro a profili biografici, profili di grandi competenze culturali e artistiche, molte legate anche alla nostra città, dal Medioevo passando dal 500, poi arrivando al 700 fino appunto al 900, possiamo scoprire, e il ciclo anche del Genio della Donna rende narrativa anche quella dimensione di studio del centro di documentazione, possiamo anche scoprire quanto nella nostra città di Bologna anche le donne hanno avuto una professione artistica molto importante. Porre oggi l'attenzione sulle donne artiste, significa, come impegno anche e come volontà politica della città metropolitana di Bologna e del comune di Bologna, dare voce alle donne, dare voce alle artiste. Questo per noi è un impegno e una volontà molto importante, molto preziosa, anche appunto in quella logica divulgativa con cittadini e cittadine, e anche in quella logica divulgativa e quindi anche di racconto del coraggio che le storie delle donne incarnano con gli sguardi più giovani, quindi gli sguardi delle studentesse e degli studenti, a cui una parte dell'attività del centro di documentazione del Genio della Donna si rivolge. Quali saranno alcuni tra gli incontri e gli appuntamenti principali di questo ciclo? Si inizia lunedì 27 febbraio con il racconto, come dire, partiamo dall'Olanda per concludersi il 15 maggio in un viaggio tra Roma e Parigi. Attraversiamo diverse figure di donne, sono sei gli incontri appunto dal 27 febbraio fino al 15 maggio, e su uno mi soffermo, la figura di Properzia De Rossi, perché è una figura che magari non tutti sanno che è legata proprio alla nostra città. All'interno della Basilica di San Petronio possiamo trovare proprio una sua formella, ecco, che è anche l'immagine proprio di tutta la rassegna Il Genio della Donna, l'immagine che il centro ha scelto. Mettere anche lo sguardo nel nostro patrimonio anche culturale della città, entrare anche in una chiesa, entrare nei musei, entrare nei nostri luoghi della cultura e lì scoprire, grazie anche magari a questi incontri, scoprire anche la bellezza che abbiamo e a cui vogliamo dare voce. Quindi gli incontri sono pensati proprio per un racconto affascinante che ricostruisce appunto biografia e opera insieme anche a tante esperte e a tante studiose della nostra città, grazie appunto alla collaborazione dell'Università di Bologna.